le merci come specchio del denaro, anarchia nella produzione. Le merci come specchio del denaro, anarchia nella produzione. Da merce a denaro a merce, da merce a denaro a merce. Le merci oscillano, il denaro fluttua. Le merci oscillano, il denaro fluttua. Merci circolanti, prezzi in movimento, velocità di moneta. Merci circolanti, prezzi in movimento, velocità di moneta. Il denaro è moneta, soltanto simbolo statale. Il denaro è moneta, soltanto simbolo statale. Merce per denaro.